forte il dolore nel rivederti, amore, mai Darlene. Ti piaceva chiamarmi così, non puoi stare più qui. Come neve al sole sciogli così l'amore che tu alle mani hai versato nel blu. Se ciao bastasse per lasciarti, non vorrei, non vorrei, ma poi pensandoci non vuoi più stare qui. Troppo forte il rancore, finisce così. Don't worry my darling, passerà prima di venerdì. Se ciao, basta.